evento raro caratterizza l'ultima ricerca ecosistema urbano curata da Legambiente, che indaga sulla qualità ambientale dei 103 capoluoghi italiani. Una città ha fatto il bis, classificandosi prima per 2 anni di seguito. L'Esploa riesce a Belluno, che non solo si conferma in testa, ma in genere migliora anche le sue performance nelle singole classifiche, suddivise in vari settori: rifiuti, trasporti, verde, aria, energia, acqua, sensibilità ecologica di aziende ed enti locali. La città veneta è la prima di 4 rappresentanti del nord-est piazzate in top 10. Altre 2 realtà dell'arco alpino, Trento e Bolzano, sono rispettivamente 3ª e 6ª, mentre Venezia è 10ª. Al 2° posto si classifica Siena e un'altra toscana, Prato, è 8ª. Tra le 10 di punta ci sono anche 2 liguri, Savona 7ª e La Spezia 9ª. In fondo alla graduatoria tante località meridionali, ma l'ultima, Frosinone, è del centro Italia. Giacomo Bagnasco, GR24, Il Sole 24 Ore.